dentro, le palude anche anche il... domani c'è una mostra di quadri, no? E passano da lì. Cosa fatto, la palla ho finito io, dopo 10 minuti uscito, con la paletta in mano, visto che era già pulito, la paletta è scoppa, ha raccolto 5 di sigarette, la prossima ne aveva pulito lui, ma te ne rendi conto? Una faccia di merda. Perché l'avevi dimenticato? No, li avevamo buttati i ragazzi già, e lì fumano di continuo, capito? Una faccia di me, non fa nulla. Adesso io dico, cosa cazzo tieni magazzino il mucio a bagno? Che si sa che il mucio con me, cioè a bagno fa puzza, puzza di fogna, no? Sai la mia risposta? No, non ti preoccupare, non mi devi dire tu questa cosa, lui parla così. Non mi devi dire tu questa cosa, capito? Non mi devi dire tu, cosa devo fare? Cioè mi ha detto praticamente, un chiseva lava le classi, con quell'acqua puzzolente. E stavo per dire, ma che... perché non te la porti a casa tua e ti lavi la camera da letto? E poi vai a dormire. Aiuti. Vabbè. Tante volte c'è gente che lo vorrebbe fare bene il lavoro, e non li pigliano. E pigliano chi si mandrone, chi non fa niente, nulla, c'è un bucaccione. Gianni, ti dico una cosa. A noi ci stanno vantando per come facciamo. Noi siamo sempre disponibili per qualsiasi cosa, pitturare, spostare, fare. Loro non fanno niente, nulla. Passano la scoppa così, non spazzata come spazzano normali, la scoppa messa di taglio e la spingono. Ecco come puliscono loro. Non fanno altro, cosa cazzo fanno? Niente. I bagni fanno schifo. Io sono andato in un bagno di una bidella che quella già pulisce. Sono in due che puliscono. Perché viene una pulisce in casa, lui si è messa proprio antipatica, di una acidità allucinante. Mi ha detto, ascolti, come posso andare in bagno, insomma la pancia? Aspetta un attimino, allora vai qua, ti ho la chiave, sono andato in questo bagno pulito, bello, splendido, mi sono cubusato tranquillamente, senza problemi. Perché gli altri bagni già fanno schifo, devi entrare col gommone a pisciare. Ma tu che mansioni c'hai? Le mansioni di aiutare. Però non è che devo fare una cosa duia, tanto noi tra un po' finiamo, poi voglio vedere. Vogliamo la palestra, che è una cosa che devono fare loro. Cioè ti bidi 1200 euro al mese e non ti degni di andare in due, se ti cazzo in 5 bidilli, 4, quelli che siete, andate in palestra, vi dividete la pulite, nulla. Allora appena finiamo voglio vedere come fanno. Questa palestra chi la pulisce? E magari finite voi ne mandano altri due, e loro c'hanno la pacchia lì. E perché decidono di andare all'asilo, cosa credi che facciano? La mattina vado io a consegnare la roba, e gli danno mezzo panino a te, i bambini vanno a pizzare, e si appoggiano altri bussifoni, tutto il giorno così sta. Oh, non le bussino, adesso questi qua li hanno presi, sì, cioè a noi, però mi sa che adesso non ci sono più fondi, e voglio vedere cosa fanno. Infatti più di una lavora lì dentro, ha detto ma per voi non c'è possibilità, non so, perché voi valete, questo non valgono niente. Fate i nuda, c'è, lui, tu li vedi, ti fanno vedere nervoso, pare che ti viene di baluculo, capito? Non fanno niente, nulla. I veri tu bassi geni, giornale in mano, pulsati, ha ripugnato sul telefono, pronto, sì, buh. Aspetta un attimino. Guarda, credo, mi sono veramente. Non ho parole già. Sì, vabbè. Basta andare a provvistare gli studi e se li vuoi rovinare basta andare di via. Anto ci sei. Sì, via. No, questo fotomontaggio me l'ho fatto già, aspetta. Che fotomontaggio è? Aspetta che me lo sta mandando, io lo pubblico su Facebook, così te lo guardo. Sì, io sono interessante perché il computer non lo faccio come me. Ascolta già, il mondo va a posto. Sì, sì, è a posto, ma probabilmente dove l'abbiamo installato adesso non va bene. Non prende tutta la casa, l'altro prendeva segnale proprio completo in tutta la casa. Vabbè, no, volevo dire, l'hai protetto, sì, era aperto. Ah già. Certo. E dico, è protetto? Aspetta un attimo. Adesso io sto qua, sì. Certo. Non lo sto pubblicando già. Te l'ha chiamato quello di fronte a vedere una cosa. Cazzo, c'è una luce immensa vicino a casa, dietro il mio amore, sì. E dopo non è solo da una parte, è in due parti. Una luce sembra quella della luna, però è divisa in due parti, non può essere la luna perché ha forte, una luce fortissima. La luna piena, no? È in due parti, la luna sarebbe solo una parte. Ah, boh, non lo so. Mettila su Facebook. San Francesco. Io sto salendo, sono rotta Asturia. Ah, stai salendo. Minchia che nebbia che c'è, Gianni, è un casino qua. Città di affette. Non so, qua siamo in altura, quindi scarsa visibilità. Sì, ma cazzo, qua è molto scarsa, molto. La gente continua a correre e a camminare come scemi, a distop e tutto quanto. Cazzo, un passo da legare. Aspetta che è svolto, eh. Addirittura si prendono le strisce dei fari. Si prende il raggio dei fari. Lo fa che si prendono le radio di fare? Sì, sì, lo fa. Beh, da lì nulla si vede con la luce. Giorgi, aspetta che sto parcheggiando. Giorgino, alla casa si vedevano due luci immense, mai viste due luci così. Forti, capito? Un bel forti, forse riflettevano sempre la nebbia. Cappa. Lascio riesco a vedere. Sto arrivando, già ti ho visto che ti sei fermato. C'è su? Sì. Ah, il pompogno. Comunque ho provato con lo smetrino piccolo, Antonè. Niente, non stacca. Stacca solo con lo smetrino ZG. Certo, devi pensarlo. Oh, Antonio, sono in quel X con una persona, un attimo, eh? Ok, vai, non c'è problema. Pomponio? Sì, sì. Sì, che ci sono. Come il segnale, vedi un po'? Portante muta. 9:10. Guarda lo scatto, eh? Guarda. Ecco qua. Quanto ha cambiato? Lo devo staccare io col tastino, eh? 9:20, sì. Ma c'è qualche problema che quando è... non stacca, sta testando, col... con il 50 funziona benissimo. Con quello è... brutto. Allora devo funzionare. E ripeto, l'hanno avuto tutti i possessori questo problema. A meno che non avessero base magnetiche anche loro. Ma ascolta, guarda, dimmi se satura la radio, se cambia. Così è staccato, così è staccato, e così è attaccato. Dimmi se senti ogni minima variazione nella modulazione. No, no, non ce l'hai tranquilla, è chiara, è perfetta. Qui non devi preoccupare, è una modulazione perfetta, non cambia niente. Ok, Quirix per me, eh. Ci sentiamo dopo. Una modifica perché c'ha questo difetto. Figurati. infatti la mamma non si è raccolta la casa costruttrice per fare queste modifiche, no? Di solito quando uno va in, cioè che c'è un intervento, chiama la ditta e gli dice, per dire, voi costruite questo lineare, guardate che crea questo problema, quindi cercate di metterlo a posto. Non è che tutti pigli un lineare difettoso perché è nuovo, se permetti il lineare te lo torno indietro, cosa me la frega? Beh, ti pare devo farmi la modifica io, e pagare in tasca mia per dire, non deve fare la ditta, basta inviargli una fotocopia come fa la modifica, la ditta la fa direttamente la ditta stessa la modifica, non è che li farà tu. Quando ti sto arrivando adesso di segnare la ditta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 10, 5. Ascolta una prova, invece la prova. Prova a usare in macchina tua se fa lo stesso difetto, che tu apposti a quella magnetica e c'è l'antenna diretta. È un casino perché c'è tutto l'impianto interno qua, è un casino. Ah, va bene, allora è inutile. Se c'è l'impianto così, inutile allora. Prova a vedere così, guarda, quanto chiavi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9 e 5. Aici. Comunque guarda, il vicino 50 è molto meglio, sì, è stato da Marco, gliel'ho detto stasera. Poi sta a lui, non lo so. Capito. Io veramente una cosa così non otterrei, tanto non mi cadevi, cioè devo aprire il lineare, modificarlo, pur mettere anche la garanzia, a parte tutto questo, si brucia, dovessero bruciare i finali, quelli che monta lento, perde la garanzia del fregato, hai capito? Quindi non può manco toccarlo adesso, deve passare almeno 6 mesi quello che è di garanzia. Che della galassia lui se ne frega, che già lo vuole fare. Se lo vuole fare, per lui non c'è resta una volta che lui fotocopia come fargli la modifica, quello che ci vede, quello che gli stacchiamo, quello che non va bene, gli mettiamo quello giusto. Cappa, cappa. Vabbè, va. Lui, ti saluto lì, che stiamo parlando di verticale qua. Via, d'accordo, non c'è problema. Attento, Gianni del Piruma. Cazzo, stavo da piano, che non si vede un cazzo. Sì, già scendo piano già. È vero, non si vede nulla. Qua adesso è un po' più chiaro, ma quella pancata che c'era lì di Libia, non si vede nulla davvero. Adesso mi sto scaldando un pochino, sto scaldando l'abitacolo col calore, no? Col riscaldamento. Così mi rifaccio dall'umidità che ho preso. Vabbè, all'aereo. Dimmi già, non ho capito. Che fa bene all'aereo l'umidità. Qua sta diventando sempre più scuro, Cioè, sempre più bianco qua. Mi conviene affrettarmi a andare via. Ti sto dicendo che c'è un punto dove c'è un banco di nebbia, non si vede più brutta. Nemmeno un metro. Qua nella strada nuova che porta a casa è lo stesso, non si vede proprio niente, è pieno, zeppo di nebbia. Non ce n'è un bel, è nuorese. Non va lì oppure a te in più. Da noi non viene molto spesso, viene solo ogni tanto. Infatti, succede molto a non da Porto Torres la mattina d'estate. Ci sono banchi di nebbia abbastanza fitti. Ma con la visibilità però dai, non al punto di quel banco di nebbia che ho trovato poco fa là. Caspita, qua non si vede una mazza, amica, bisogna andare veramente piano. Non te l'ho detto di andare piano, te l'ho detto che c'era questo banco di nebbia, non si vede nulla. Io più che altro la curva vorrei vedere, cacchio. Non mi sa io, cacchio, non la vedo, già la vedo. Ecco qua. Sto uscendo dalla zona. Io invece sto entrando. Grazie Cappa, bene, bene. Io sto scendendo in via, sto scendendo in via, via. Beh, grazie a Deletta è questa, sì. Grazie, faccio compagnia, ci la dando rinunce, la guida. Gaba Gaba. Come città più limpido? Sì, io sono ancora dalla parte alta di via Coso. Ce n'è meno di nebbia, ce n'è di meno qua. Però c'è. Qua il cortile è pieno, non si vede nulla. Quando volevamo che mi sbatto. La mia amica. Se so che c'è. Se no si vede qua nulla. Come ripete? Quello continua a ripetere, senti, ola, ola, ola, ola, ola, ola. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, la gara, qua via Sulcis. Sto per prendere il ponte nuovo. Comunque si sente che si è compresso, Sono compresso? Bravo. Ma per l'amplificato? Non avete la compressione, si sente che c'è la potenza. Oh già, veramente ce l'ho staccato mi. Allora si è troppo attaccato alla bocca. Sì, può darci che stia parlando troppo vicino al mic, adesso sono un po' più distante, dai. A quanto ce l'hai il mic? A metà, a 5. Prova a aumentare. Gava gava, adesso è a 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, prova, vediamo come mi ascolti a 10. Appena appena diminuisci. Ecco qua, ho diminuito appena appena. Si sente bene così. Sono così che va bene, che dopo ne mangiare. KK, vediamo quant'è e non si vede, là c'è buio qua. Dopo guarda quant'è. Aspetta un attimo. Prova. Ora dietro. Sinistra. Ora. Ora. Ora dietro. Prova. Così, così, ora, così va bene Marco? Sì, abbastanza. Allora va su così, va. Vada, vada. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, così ce n'è di tocco. Ora. È leggero, leggero, però si sente. E così va bene, va bene, va bene. Va bene così? Eia, allora sono in, aspetta, viale Trento, no, via Gorizia a scendere verso viale Trento. Che non ho verso via 5, io come ti arrivo, cambio. Qua c'è un movimento, vediamo un po' c'è viale. Prova. Ok. Aspetta, c'è il rosso adesso, dai, fai, prova il segnale. Guarda, prova. 8, 8, 5. E io come sono adesso, guarda? Sono fermo al semaforo. 7, ma sei staccato. Staccato, staccato. 6, 7. Guarda se attacco, guarda. Ora, 1, 2, 3, 4, 5. 9. Due Santiago, da, sta funzionando correttamente allora. Sì. Per quello lì sì. Comunque non spara molti watt, con 4 watt di pilotaggio ne dà una cinquantina, non di più. Però più sale di potenza e più sale di watt. Ehi. No, ma già va bene così. Ora? 1, 2, 3, prova. Aspetta, è troppo, aspetta. Ora? Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, si è sballato l'escopo. Perché è sballato? Io ti sento. Ma si sovramodula una parola con l'altra, vero? Beh, dipende come lo hai impostato. Un po' lo fa. Allora, guarda qua, osserva bene. Staccato, 1, 2, 3. Attaccato, 1, 2, 3. Ah, va bene, da. Comunque, a parte il difetto, già va bene questo, eh. Manda laterale, sono curioso di provarlo anche. Qua forse alzando il microfono si sente di più la saturazione. Abbasso appena appena. La modulazione? Aspetta. Adesso è a 5, l'ho rimesso come prima, 5, aspetta, così distanza a 4 dita, e così parlano vicino. No, devi parlare distanza perché se si sente male. Cappa, da, allora parlo così, distanza a 4 dita, e volume è a 5. Pagava, ci sentiamo, dai, se ritorno a casa, me ne vado a letto. Ciao, ciao. Ok Gianni, ci sentiamo. Buonanotte. Buonanotte e a domani. Alza, signora.